La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia come sempre per l'ascolto in diretta in podcast della versione di Oscar. E vi dico subito che l'argomento, stante che si vota domenica per le attese elezioni nel grande paese, e l'argomento è questo. Avete riconosciuto, immagino, questa è musica di Haydn, visto che Haydn è il compositore a cui si deve l'inno tedesco. Ecco, domenica appunto si vota in Germania, oggi con alcuni ospiti cerchiamo di fare il punto a poche ore dal momento in cui 61 milioni e mezzo di elettori tedeschi faranno la loro scelta, di che cosa può avvenire, che cosa ha contraddistinto ed è stato rilevante anche dal punto di vista nostro, europeo e italiano, in questa campagna elettorale, che cosa ci si può attendere in vista della formazione della nuova coalizione di governo, composta da chi, per fare che cosa. L'unica cosa che non è, pare, in discussione, almeno a vedere dai sondaggi, è chi sarà il premier, perché il premier sarà di nuovo Angela Merkel. Però le cose in questi mesi sono cambiate. Io vi ricordo solo, innanzitutto, prima di andare direttamente agli ospiti, come si vota in Germania. Ve lo ricordo anche perché la notizia del giorno qua è che c'è l'accordo, pare, sul Rosatellum bis, quindi non si andrebbe a votare in Italia alle prossime politiche, dopo la legge di bilancio, con le due leggi risultanti dalle sentenze della Corte Costituzionale su Camera e Senato, bensì ci sarebbe questo accordo, vedere per credere, ma comunque, che ha le seguenti caratteristiche, così vi aggiorno anche su quello che succede nella politica italiana, poi vediamo come si vota in Germania. Il Rosatellum sarebbe fatto per un terzo di collegi uninominali, dove quindi viene eletto chi vince e arriva prima. E poi ci sono anche le liste proporzionali, listine proporzionali, al massimo 4 candidati, doppio voto, quindi non voto disgiunto. Non è ancora ben chiaro, questo non è dichiarato ed è molto importante, qual è il meccanismo di recupero tra gli eletti nel maggioritario e la quota del proporzionale che raggiungono con il secondo voto del Rosatellum bis i partiti, se si recupera in aggiunto rispetto ai membri del Parlamento o come si riequilibra. È molto importante questo, perché questo può decidere quanto vengono premiati i due maggiori partiti, per essere chiari, attraverso la legge elettorale. La caratteristica di questa legge elettorale, Rosatellum bis, è che aumenterebbe la frammentazione, perché la soglia d'ingresso sarebbe solo il 3%, quindi più liste. La seconda è che aumentano i designati dai leader dei partiti, perché sia i candidati nei collegi nominali sia i listini così ristretti vengono scelti dai segretari di partito, quindi non proprio un passo avanti verso la libera scelta dell'elettore. E però ci sarebbe un passetto in avanti nella parte maggioritaria per le alleanze di coalizione, a differenza di quello che avveniva alla Camera con la legge risultante dalla Corte Costituzionale. E diciamo è l'ultimo tentativo in grande stile che Forza Italia e PD e il partito di Alfano, e pare che anche la Lega sia favorevole, fanno per ottenere il seguente risultato politico. Ovviamente è volto a diminuire gli eletti rispetto a quelli dei due grandi partiti, che a quel punto sarebbero PD e Forza Italia, cioè quelli che possono fare coalizione, dei 5 Stelle, è fatto apposta per segare le gambe a MDP, a chi è uscito a sinistra dal PD, con cui Renzi non si alleerà in coalizione, e appunto obbliga Salvini a rinunciare alla sua ambizione di non coalizzarsi con Berlusconi. Questo lo vedremo comunque nei prossimi giorni. In Germania invece, anche in Germania c'è un sistema elettorale misto, proporzionale e maggioritario, quindi nelle 299 circoscrizioni in cui votano i 61 milioni e mezzo di elettori domenica prossima in Germania, si trovano indicata la possibilità di esprimere sulla scheda elettorale due voti. Il primo è al candidato di collegio, e in Germania a quel punto chi vince ottenendo più voti nel collegio è eletto. La seconda, con e una possibilità con voto disgiunto, in Germania sì, a differenza del Rosatellum bis che vedremo forse in Italia, di scegliere un partito. I voti raccolti dai partiti in Germania con il secondo voto, quello proporzionale, danno il numero degli eletti al Bundestag. Il meccanismo di recupero in Germania prevede che nel bilanciamento tra coloro che vincono nei collegi uninominali e la cifra elettorale proporzionale espressa con il secondo voto abbia portato negli anni a un numero aggiuntivo di componenti del Bundestag rispetto ai 598, attualmente sono 630, e questo meccanismo è stato ulteriormente cambiato per la prima volta in queste elezioni dalla Corte Costituzionale, quindi il numero di parlamentari aggiuntivi potrebbe crescere, dicono molti esperti, significativamente, e questo avrebbe un impatto sul numero minimo di seggi al Bundestag su cui deve poter contare la coalizione, ovviamente guidata dalla Merkel. Di qui le varie ipotesi. Io al momento mi fermo qui perché preferisco presentarvi il primo ospite. Il primo ospite che è Veronica De Romanis, economista, saggista, autrice, l'abbiamo tante volte citato in questi anni, non solo di un libro dedicato alla Merkel e alla Germania, ma di un libro più recente, di cui spesso abbiamo parlato nel corso del 2017, L'austerità fa crescere, edito da Marsilio. Grazie di essere con noi, professoressa De Romanis. Grazie a voi. Allora, innanzitutto, lei che conosce bene quel paese, ci ha vissuto, che cosa si aspetta da queste elezioni come risultato, innanzitutto? Beh, diciamo il risultato che si aspettano un po' tutti, che la cancelliera Merkel dovrebbe riuscire in quello che è riuscito solo Helmut Kohl, cioè essere riconfermata per il quarto mandato. Lei è stata eletta. Sì, Kohl fino a questo momento è quello che ha il record, 16 anni, non c'è il limite di mandato alla conferma del cancellierato in Germania. Ma quello che è interessante è che lei, quando fu eletta nel 2005, va detto fu una vittoria veramente di misura, perché all'epoca Schröder perse per pochissimi voti. All'epoca nessuno pensava che questa donna venuta dall'est, in fondo con un'immagine non così glamour come all'epoca aveva per esempio Schröder, potesse arrivare a uguagliare il record di Kohl. E invece ci è riuscita, ha sorpreso tutti. Sorpreso tutti, una grande capacità strategica anche di cambiare posizione, di adattarsi a quello che il paese chiede, è venuto sull'energia, sulle tematiche ambientali, su tante altre cose, denti aguzzi in un guanto di velluto, perché ha fatto secco il grande leader che era stato il suo tutore, e l'ha fatto secco, diciamo, con metodi abbastanza brutali ai vecchi tempi, però insomma una grande personalità. Sì, io più che altro, lei in questi anni ha usato appunto un metodo di politico che sta funzionando molto bene, cioè lei ha spostato il partito, quello cristiano democratici, verso il centro, quindi come diceva lei ha un po' rubato i temi a tutti i vari contendenti, quindi ai socialdemocratici per esempio ha rubato i temi sulle donne, sul finanziamento degli asili nido, ai verdi ha rubato il tema dei nucleari, ai liberali che ora entreranno di nuovo in Parlamento ma non erano riusciti a superare la soglia del 5% nelle precedenti elezioni, ha rubato il tema della riduzione delle tasse, anche alla stessa nuova formazione alternativa per la Germania in un certo senso sta rubando il tema della stretta sull'accoglienza, quindi lei cannibalizzando gli altri diventa l'unica alternativa. E infatti quello che si dice in Germania, nessun esperimento, votiamo la Merkel, anche perché questa mamma della nazione, perché oramai la sintonia è tale che molti la chiamano Mutti, ha trasformato quello che era il malato d'Europa, questo ovviamente anche grazie alle riforme di Schröder, e lei lo riconosce ogni volta, però ha trasformato un paese in una grande locomotiva che cresce, la disoccupazione ai minimi storici, siamo intorno al 4%, i giovani trovano lavoro, le esportazioni tirano e quindi le persone si dicono ma perché dobbiamo cambiare? Tutto ciò in un clima di grande stabilità politica. Allora, ci ha raggiunto la seconda ospite, Tonia Mastrobuoni, che è la corrispondente della, dalla Germania per Repubblica, che saluto e che ringrazio e che leggo avidamente da anni, a dire la verità, perché oltre a seguire con passione quello che avviene in Germania, nella politica, nell'economia, nel costume, eccetera, ha anche un taglio molto civile. Tonia Mastrobuoni, io l'ho sempre ringraziata per questo, perché a volte i colleghi giornalisti, è vero che bisogna essere oggettivi, però insomma ci sono dei temi sui quali ogni tanto avere anche un accento e dichiararlo a me piace, a dire la verità, quindi ammetto di essere un suo fan e non vorrei imbarazzarla per questo. Grazie intanto di essere con noi, Tonia. Grazie, un imbarazzo invece enorme, perché la stimo ovviamente. No, lasciamo per. No, conti molto più tu ed è giusto così. Da quando allora, il mio vice direttore. Lasciamo perdere. Allora, quello che ti chiederei di recuperare la memoria del nostro ascoltatore, perché la campagna elettorale in Germania è stata seguita, secondo me, complessivamente da molti grandi media, un po' male, distrattamente. È stata una campagna elettorale invece che ha presentato molte importanti novità. Pochi mesi fa noi dicevamo, ma arriva Schulz e in poche settimane sembra in grado di battere la Merkel, e alla fine, purtroppo o per fortuna, secondo dei punti di vista, ma non è stato così, è stata una meteora. Alla fine, e forse era meglio per l'SPD fare un'altra scelta, Sigmar Gabriel ha tirato fuori una verve che Schulz non aveva, e lui cresce nei sondaggi, ma non va sul SPD, da una parte. Dall'altra, l'FDP, i liberali, che rientrano in Parlamento perché non c'erano l'ultima volta, insomma, l'FDP pongono un problema serio, perché hanno una posizione che se facessero da soli loro la coalizione con la Merkel, beh, sarebbe un regalo a tutte le forze di opposizione. Io sono tendenzialmente un liberale, però hanno sui temi europei una posizione di una durezza nei confronti di qualunque meccanismo cooperativo che è peggio di Schäuble, a dire la verità, almeno nel mio giudizio. Dall'altra parte, qui la grande novità, e ti chiedo di spiegarci un po' che tipo di candidati ha e entreranno in Parlamento, è che qui il terzo partito è Alternative für Deutschland. L'ultima volta non ce l'aveva fatto per pochissimo come liberale entrare al Bundestag, ma questa volta ci entra a vere spiegate e finisce quel 5% che aveva sempre evitato come tetto l'ingresso del partito dell'NPD, cioè della formazione di destra che era rimasta nella Repubblica Federale dopo la guerra. Questa volta la destra molto dura, Islam, immigrati, altro che se ci entra. E questa a me sembra in ogni caso la grande novità. Che ci dici? Dunque, io credo che abbiamo sbagliato un po' tutti a pensare che questo sia un paese pacificato. C'è questa Merkel molto Biedermeier che in qualche modo ha, è vero, ha contribuito anche grazie a Schröder al benessere della Germania, ma sono dimenticati evidentemente una parte di paese ed anche una parte geografica molto ben, molto precisa, ed è la vecchia Germania Est. Lì i sondaggi sono devastanti, cioè la AfD e la Linke, stiamo parlando dei due partiti che Merkel ha sostanzialmente dichiarato fuori dall'arco costituzionale, perché ha detto con questi due partiti non si può governare. Non si fanno coalizioni. Stiamo parlando quindi di una destra che io definirei neanche più populista, ma destra estrema, cioè la AfD e la sinistra radicale, la Linke, insieme nelle regioni dell'est prendono tra il 20, tra il 40 e il 45%. Tra il 40 e il 45%. Sì, quasi un elettore su due in Germania Est vota per un partito che è comunque un partito di opposizione, è un partito di forte protesta, e nel caso dell'AfD con cenni chiaramente eversivi. Questo che cosa vuol dire? Che c'è già gli osservatori più, come dire, acuti dicono giustamente, dobbiamo prendere atto del fatto che purtroppo la grande eredità di Angela Merkel è la AfD. Cioè uno delle, come dire, purtroppo lei lascerà in eredità alla Germania il primo partito a destra della CDU CSU. Sappiamo che il vecchio, c'è sempre l'adagio del vecchio leone della CSU, lo ricordate, Franz Josef Strauss, che per anni diceva non deve nascere nulla a destra se di questo. Padre nemmi a droit, invece che padre nemmi a gauche, come si dice in Francia. Esatto, nessun nemico a destra. Questo nemico a destra c'è, è un nemico molto pesante, e adesso che comincio a parlare anche delle alleanze, io questo, cioè tra probabilmente Aspetta, aspetta, aspetta, la qualità del collegamento sta decadendo fino al punto tale da non capire, mentre ti richiamiamo al volo. Veronica De Romanis, l'eredità della Merkel Alternative für Deutschland, come la vede questa? Ecco, sì, volevo aggiungere, spero che poi Tonia riesca a sentirmi, è vero che ha lasciato un buco a destra spostando il partito al centro, però perché questo è avvenuto? Ricordiamoci che l'AfD è nata non con questi toni, è nata da un'idea di professori, di economisti che volevano, che non erano d'accordo con la gestione della crisi da parte della Merkel, soprattutto non erano d'accordo con l'idea che la Germania dovesse pagare, e non è solo la Germania che ha pagato, ovviamente abbiamo pagato tutti noi contribuenti europei, insomma che non si doveva venire in soccorso ai paesi spendaccioni del sud. Ma poi lì, quella leadership è stata mandata via e ne è arrivata una razzista. Quella leadership è stata mandata via e il messaggio da anti-euro è diventato anti-immigrazioni. Ora lì la Merkel è rimasta ferma sulle sue posizioni, cioè ha detto uno, qui bisogna difendere l'euro perché la Germania da sola non va da nessuna parte, ha bisogno di far parte di un'unione forte e stabile, quindi lei quando c'era da scegliere tra la stabilità interna e l'Europa ha sempre scelto l'Europa. Questo va spiegato perché molti continuano a dire ha fatto gli interessi dei tedeschi, ma secondo me ha anche contribuito invece a tenendo insieme la Germania in un certo senso, a tenere insieme l'Europa. E per quanto riguarda l'immigrazione, lei si è fatta portatrice di valori europei, che è quello della solidarietà, basta andare a rileggersi il suo discorso che fece quando prese la decisione delle porte aperte. È chiaro che sta pagando un costo, è chiaro che difendere l'euro e difendere i valori del progetto europeo costa, ma questo forse è il ruolo dei veri leader, che non sono dei politici di breve respiro ma sono degli statisti, e non per altro non ci deve appunto stupire che affronterà altri 4 anni. Qui il problema, naturalmente, quanto... con le spree delle scalie sono tutti buoni, quindi mi autocritico da solo. Il punto è, mentre io sono completamente d'accordo nel giudizio complessivo che lei dà sull'Europa, la Germania tedesca e la posizione di grande civiltà che assunse nel 2015, l'estate del 2015, resta il fatto che con quella uscita non concertata, nel giro di pochi mesi mise in atto la reazione di tutti i paesi est europei del blocco di Visegrad, e assistemmo in poche settimane al ritorno delle truppe alle frontiere interne dell'Europa e ai muri che proliferavano da tutte le parti, per il fatto di avere, forse, io dico, l'ho sempre detto, sottovalutato le conseguenze che il corridoio della migrazione che si spalancava a quel punto dall'asse Turchia, Grecia, paesi est europei, scatenava all'interno dell'Europa. Questa roba obiettivamente ha rafforzato, dall'Ungheria alla Polonia, alla Cechia, alla Slovacchia, tutti i partiti nazionalisti, razzisti, anti-immigrati, e ha riportato fior di argomenti in Germania ad Alternative für Deutschland. Mi rendo conto che con le spede delle scale sono buoni tutti, ma però quello che abbiamo un po' visto è così. Tonia, torniamo un secondo a questo punto di Alternative für Deutschland, ma per te che segui nei mesi quotidianamente, il tipo di candidato di Alternative für Deutschland che entra in Parlamento, che tipo di candidato è? Perché a volte io ho letto delle dichiarazioni che qui in Italia sarebbero, no, persino appunto, in un paese come il nostro dove se ne sente di ogni, però ti priverebbero di ogni credibilità. Ecco, cioè ci sono candidati di Alternative für Deutschland che dicono gli islamici hanno prodotto aree in cui non c'è la legge, sono contrari allo spirito tedesco, bisogna assolutamente chiudere queste aree, levarle di lì, cioè con dei toni così, neanche Salvini qui riesce a dire cosa simile. No, stiamo parlando di impresentabili fino a qualche anno fa queste persone qui, anzitutto persone anche con, come dire, che fanno dichiarazioni simili, hanno biografie simili, naturalmente nella CDU non avrebbero mai trovato un posto e sono state buttate fuori per anni dalla CDU, appena emergeva una nuance in qualche modo antisemita o che rimandasse a nostalgie venivano immediatamente cacciati al partito. Questi cacciati al partito però insieme ad altra feccia, io lo chiamerei feccia, perché quando parliamo di candidati che in qualche modo sognano una fusione tra l'AfD e gli identitari. Gli identitari sono un movimento di estrema destra che si dà un'aria un po' hipster per attirare i giovani, ma vuol dire, stiamo parlando di feccia politica, gente nostalgica del trentennio nazista, gente che relativizza l'olocausto, ecco, ce ne sono decine di candidati così. Quindi dobbiamo anche interrogarci su questo: com'è possibile che la Germania, in Germania, nella Germania di Angela Merkel, queste robe siano state sdoganate pubblicamente? Perché Alexander Gauland, che era un vecchio cristiano democratico, sì, peraltro, sì, tanto per togliersi qualsiasi residuo di, come dire, così un po' linea moderata, nell'ultima settimana ne ha infilate una serie. Ha detto sostanzialmente che bisogna essere orgogliosi di quello che hanno fatto i soldati nelle due guerre novecentesche tedesche, quelle che i tedeschi hanno cominciato e hanno perso entrambe, però facendo milioni di morti. Allora, questa è per esempio una tipica tesi, io mi ricordo, cioè che ho letto anche nei libri, era la tipica tesi che circolava negli anni 50, no? Ancora un po' bruni, diciamo, c'era una borghesia ancora un po' così, che usciva da una guerra a testa bassa, ma continuava a coltivare certe tesi. Una delle tesi più in auge all'epoca era che ci fosse una differenza tra le SS, tra le crudeltà, le atrocità delle SS e quelle dei poveri soldati, la Wehrmacht. E poi sappiamo che fior di storici e la famosa mostra itinerante in Germania, invece, anche sulle responsabilità della Wehrmacht, ha fatto i conti con la storia. Lui tranquillamente poteva fare una tesi del genere senza essere preso a randellate per strada da nessuno, perché queste cose qua ormai si possono dire a un grande giornale, si possono dire cose come lui ha detto alla Bild, cioè che un membro di spicco della AfD come Björn Höcke, che è il leader della Turingia, quindi anche di una regione importante nella Germania Est, che è un noto antisemita, uno che ha detto che non tutto di Adolf Hitler va buttato, cioè ci sono, come dire, dei chiaroscuri. Io sfido chiunque a trovare dei chiaroscuri in Adolf Hitler. Comunque, lui, un personaggio del genere, secondo Gauland, lo ha detto il più grande tabloid tedesco, è un personaggio che rappresenta lo spirito, l'anima più profonda della AfD. Allora, domanda che ti faccio: poiché proprio Alexander Gauland ha detto anche testualmente l'Islam e i musulmani sono, leggo la traduzione letterale, sono un fenomeno politico che non fa parte e non deve fare parte della Germania. Allora, siccome lì ci sono un po' di milioni di musulmani, non troppi, ma ci sono, insomma, non proprio pochi anche contemporaneamente per via della storia, dell'immigrazione turca, eccetera, di musulmani in Germania, come voteranno i cittadini tedeschi musulmani? Nei sondaggi, ecco, si capisce? Questa è una domanda molto, molto bella, perché molti sono turchi, e la cosa stupenda è che dagli studi emerge che, vabbè, tradizionalmente i turchi qua votano ovviamente i partiti che in qualche modo rappresentano di più gli interessi degli immigrati, dei gatti. No, ci sono candidati che sono figli di turchi, o turchi che sono cittadini tedeschi e sono candidati nei partiti, ovviamente. Beh, il più famoso è il leader, c'è un tandem che guida al momento, che sono i due candidati dei Verdi, e un tandem è uno dei due, e c'è Özdemir, che appunto è un verde, anche molto coraggioso, che si è opposto a Erdogan, che è stato minacciato di morte, insomma. Ecco, ma quindi la comunità a quel punto islamica, con Erdogan che dice ai turchi non votate né per SPD né per CDU né per i Verdi, ma alla fine a chi li dà i consensi? No, la cosa stupenda è che loro tradizionalmente votano Verdi e SPD in maggioranza, sì, e continueranno a votare Verdi e SPD, ma sono gli stessi che poi sono andati nel 2015 a votare per le presidenziali in massa Erdogan. E che adesso anche gli hanno dato i voti al referendum, come dire. È un voto più che pragmatico, non so come è un dire. Voto più che pragmatico, sì. D'accordo. Ma a questo punto io andiamo adesso alla borsa, però ricomincio con entrambe con la stessa domanda: dai sondaggi, da quello che vedete, la Merkel che tipo di coalizione fa? Perché con risultati in cui in una parte ampia del paese, sia pure quella che poi esprime un numero minore di eletti al Bundestag rispetto ad altri grandi Länder occidentali, ma in cui i voti vanno diretti alla protesta, all'estrema sinistra e all'estrema destra nazionalista nostalgica, il tipo di coalizione che fa Merkel può avere sviluppi di segno molto significativo anche per noi, per il resto dell'Europa, visto che qui dopo la lezione inizia il grande cantiere su come si costruisce l'Europa a cerchi concentrici di cooperazione rafforzata, e la grande proposta tedesca e quella francese sono sul tavolo, ma come ovvio la loro declinazione dipenderà anche da come l'atmosfera politica tedesca nel dopovoto prende il vento, da che parte. Intanto, borsa. Venerdì 22 settembre, annunciazione, Radio 24 dalle 14 alle 15.30, puntata extra large di tutti i convocati. Avremo la Coppa dei Campioni, lei, proprio lei, sul tavolo. Ovviamente potete vederla diretta Facebook anche per questo evento eccezionale. Ce la porteranno per mano due che l'hanno vinta. Eh sì, Cafu e Kivu saranno i nostri super ospiti, ma ovviamente avremo anche Giovanni Capuana, avremo De Luca dietro al vetro e poi Dario Ricci che fisicamente ci porterà la Coppa, sarà proprio lui l'uomo che ce la porterà, e ovviamente tutti i vostri commenti, i vostri ricordi, le vostre emozioni, quelle più belle, quelle più brutte, quelle dolci, quelle amare, quelle da gufi, perché c'è anche questo della Champions. Io mi faccio anche la barba per l'occasione. Io no. Vabbè, tu te la tieni. Dov'è la Coppa? A Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta, cari ascoltatori. Tema lezioni tedesche di domenica, 61 milioni e mezzo di elettori al voto, la Merkel 99% confermata cancelliera, ma la domanda, dopo aver visto un pochino cosa è successo in campagna elettorale e comunque tenendo conto di questa enorme novità storica del successo a doppio voto elettorale che avrà, entrando per la prima volta in Parlamento, Alternative for Deutschland, la domanda diventa: con quale coalizione può diventare cancelliere Angela Merkel, e anche che cosa sarebbe meglio come tipo di coalizione per quello che poi deve avvenire in Europa e anche dal nostro punto di vista? Cominciamo di nuovo da Tonia, che ci deve lasciare tra poco. Tonia. Dunque, al momento, dal punto di vista strettamente numerico, possono funzionare solo due coalizioni, perché nei sondaggi ufficiali, no, siamo al 36-38% per la CDU, intorno al 22% la SPD, e gli altri partiti, la SD potrebbe essere il terzo partito col 12%. A me stamattina dalla CDU mi hanno detto che temono che la SD possa arrivare al 14-16, rendiamoci conto. Comunque, quindi tutti gli altri sono intorno al 10-8%. Quindi in questo scenario qui, naturalmente, la grande coalizione è una coalizione possibile. L'altra coalizione possibile è per la prima volta una coalizione a tre, cioè CDU, quindi il partito di Angela Merkel, con i Verdi e i Liberali. Dunque, la grande coalizione avrebbe naturalmente come vantaggio il fatto che il tema che accennavi tu poc'anzi, Oscar, quello del rilancio europeo, naturalmente è il dream team è naturalmente Merkel-Schulz, perché io son meno d'accordo sulla bravura di Merkel in questi anni rispetto all'Europa. Secondo me lei invece ha fatto degli errori clamorosi che abbiamo pagato ma tantissimo. Voglio ricordare solo il 2010, cioè il primo anno della crisi greca. Noi aspettiamo 5 mesi per aspettare le elezioni in Renovestfalia, questi 5 mesi di trattativa europea, in cui poi alla fine c'è sostanzialmente costrinse tutti a fare un accordo. Da 30 miliardi con cui poteva essere salvata la Grecia a gennaio, febbraio, noi arriviamo a 110 miliardi. Quindi c'è una responsabilità enorme anche di come è stata gestita male la crisi. Voglio fare un altro esempio: le banche. Cioè, ci fu un G8, cioè un G2 con Sarkozy, in cui Merkel disse ognuno si fa i cavoli propri sulle banche. Il risultato l'abbiamo visto nel 2008. Quindi io sono molto meno positiva su Merkel rispetto all'Europa. Io penso che lei abbia fatto gli errori veramente madornali. Però quindi tu dici che dal punto di vista della partita futuro, europea, sarebbe meglio la coalizione tra la Merkel, i Verdi e i Liberali? No, tra la coalizione, no, la grossa coalizione. Ah, ecco, con i socialdemocratici, infatti mi sembrava che non sì, tornare. Sì, naturalmente Merkel-Schulz, ecco. Sì. Invece vedo molto più problematico l'ipotesi di una coalizione con i Liberali o con i Liberali e i Verdi. Perché, lo ricordavi anche tu poco fa, i Liberali sono stati devastanti in campagna elettorale, cioè Lindner ha fatto capire che vuole la Grecia fuori dall'euro, sì, esatto. Che sull'ESM, sulla riforma dell'ESM, lui non vuole assolutamente soluzioni che implichino una qualche solidarietà in più della Germania. L'FDP è diventato durissimo per evitare di perdere troppi voti su Alternative for Deutschland. Per chi conosce l'evoluzione dell'FDP, era rimasta fuori al Parlamento, quindi sarei durissimi. C'è anche il fatto che Lindner ha una personalità molto, molto, molto marcatamente narcisa rispetto ad altri vecchi leader tradizionali dell'FDP un po' più pacati, e quindi su questo effettivamente sarebbe un cambio, ecco, rispetto, ma molto più oltranzista della Merkel, nel senso del no a ogni tipo di riforma in cui qualche timido magari elemento cooperativo mutualistico dovesse andare sul tappeto. Allora, intanto, grazie a Torino Mastrobuoni. Veronica De Romanis, da un altro punto di vista, perché le nostre due ospiti hanno dichiarato dal punto di vista, secondo lei, quale coalizione probabile e soprattutto quale sarebbe la migliore per Veronica De Romanis? Arrivo subito al punto, però un flash sulla Grecia. Io penso che sia una lettura un po' veloce quella che la Merkel ha tutte le responsabilità. Ricordiamoci all'epoca quando Papandreou, l'allora primo ministro, andò in televisione a dire che avevano truccato i conti, lui stesso non voleva un aiuto, non c'erano strumenti perché non era prevista da nessun trattato un default di un paese, un'uscita dall'euro, quindi non si sapeva cosa fare, non era solo la Merkel che non si voleva muovere, ma erano tutti gli altri 18 membri dell'area monetaria che non sapevano cosa fare. L'ISM, il famoso meccanismo di stabilizzazione europeo, è stato creato dopo. Quindi nessuno strumento, la Grecia voleva far da sola all'inizio, e poi quando si cominciò a capire che bisognava intervenire in qualche modo, si chiese l'intervento del Fondo Monetario Internazionale, perché era l'unico che aveva un know-how. Quindi è un po' facile addossare la colpa alla Merkel per le elezioni nel Regno Unito. No, però insomma, si è dovuti imparare dagli errori. Io penso che invece andare per piccoli passi è stato l'unico metodo che lei aveva per convincere i tedeschi a, in un certo modo, violare i trattati, perché i trattati dicono che non c'è un bailout, tu non puoi aiutare gli altri paesi, non puoi fare un trasferimento, devi fare un prestito. E soprattutto, e ricordiamolo sempre, in Germania c'è anche nella norma fondamentale il richiamo che in caso di salvataggi ogni euro che viene dalla Germania deve essere autorizzato dal voto diretto del Bundestag. Però detto questo, sa com'è, Veronica Romanis? A me è capitato domenica scorsa di leggere su un grande quotidiano che la lezione, per esempio, da mettere a frutto nella prossima riforma dell'Europa è che occorrono strumenti di fronte al rischio di default, l'esposizione dei paesi più esposti al debito, come ancora l'Italia e la Grecia, strumenti che consentono anche la ristrutturazione del debito. E quell'editoriale diceva come in Grecia non è stato possibile fare. Peccato che ho detto, ma ragazzi, ma veramente siamo a questo punto? È stato possibile? E come? Cioè, c'è stato un taglio del nominale del debito pubblico greco superiore al 65% di quello detenuto però dalle banche estere e dai bondholder esteri. Non possiamo dimenticarcelo. Anche questa è stata una cosa che è avvenuta grazie alla presenza del tanto deprecabile e deprecato e famigerato Fondo Monetario Internazionale. Però è avvenuta, perché se non ci fosse stata quella ristrutturazione del debito greco, col cavolo che pagherebbero gli interessi così bassi oltre agli aiuti. La domanda poi è diventata, col fondo monetario della a guida francese, se fare un ulteriore round di abbattimento del debito, di ristrutturazione del debito, ma comunque c'è stata. Ma però, ecco, per dire De Romanis, che non devo dirlo a lei ma lo dico a chi ci ascolta, a volte mi sembra che dimentichiamo quello che è avvenuto a distanza di così pochi anni. La coalizione secondo lei migliore quale sarebbe? Dunque, per l'Europa sicuramente una riedizione della grande coalizione, una terza riedizione. Schulz e Merkel funzionano, addirittura si è parlato nel loro dibattito televisivo invece di un duello, di un duetto. Ma dopo la legnata che prendono i socialdemocratici, come fanno? Il partito non sarà preso dalla tentazione, se lo faccia la Merkel noi dobbiamo andare all'opposizione per riprenderci i voti? Il problema è che a loro non conviene questa strategia, perché quando non sono stati al governo, cioè durante il secondo mandato della Merkel nel 2009, quando la Merkel ha governato con i liberali, in realtà lì loro hanno ancora continuato a perdere consenso. Quindi mettersi al margine, poi cosa fanno? L'opposizione con l'AfD, a loro non converrebbe. Invece se ci fosse quello che, di cui parlava la Tonia Mastrobuoni, una coalizione giamaica, cioè liberali e verdi, lì dal punto di vista soprattutto delle regole fiscali rischiamo una maggiore rigidità, perché il nuovo leader dei liberali, ne parlavate voi prima, ha detto chiaramente basta con il finanziamento dei spendaccioni del sud, e questo significa appunto regole, meno flessibilità. Invece Schulz in tutti questi anni, soprattutto quando era a Bruxelles, è stato uno di quelli che è sempre stato a favore della flessibilità. È chiaro che lì di nuovo la Merkel dovrà mediare, perché da una parte non vuole essere la cancelliera del partito della spesa facile che accorda flessibilità senza condizionalità, la famosa equazione responsabilità e solidarietà. Dall'altra però sa che l'Europa deve procedere, bisogna continuare con l'integrazione, esatto, soprattutto in un mondo così incerto. Strumenti nuovi per il cerchio a cooperazione rafforzata e più ristretto sono necessari, proprio perché abbiamo imparato dagli errori e da quello che non c'era nell'armamentario europeo. Poi ci sono filosofie diverse, è chiaro che la proposta di Macron, del superministro europeo con un bilancio più ampio, non è quella di Schäuble, la trasformazione del MES attuale, il fondo salva stati, in un vero fondo monetario europeo, però il rischio è molto elevato che in caso di coalizione con, lo dico con la morte nel cuore dei miei amici liberali, in Italia l'opposizione diventerebbe ancora più dura, perché si direbbe questi, addirittura persino Schäuble verrebbe rimpianto, temo. Però naturalmente vedremo. Intanto ci ha raggiunto Danilo Taino, che è columnist del Corriere della Sera, corrispondente della Germania del Corriere della Sera, oltre che statistical editor del quotidiano, uno attento ai numeri e all'economia. E adesso andiamo alle strade e poi riprendiamo con Danilo Taino. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta. I tedeschi al voto domenica. La Merkel vincerà, sì, 12-13 punti di vantaggio nei sondaggi rispetto all'SPD, che ha deluso le aspettative all'inizio di rimonta. Grande novità, Tentative für Deutschland, durissimo partito anti-immigrazione, razzista, con fortissime dichiarate nature nostalgiche, entra a vedere spiegate in Parlamento. Rientrano i liberali, ci saranno anche i verdi. La domanda diventa con quale coalizione la Merkel governerà e soprattutto con quale conseguenza per il cantiere europeo che è aperto. Allora, Danilo Taino del Corriere della Sera, come la vedi? Buonasera. Come la vedi? Beh, io dipende moltissimo da come vanno i numeri, naturalmente. Io mi auguro che ci sia un cambiamento, quindi io sarei molto favorevole, vedrei bene un governo con i liberali, di Merkel con i liberali. Un'altra grande coalizione credo che non farebbe bene al paese, non farebbe bene alla democrazia della Germania, tutto sommato non muoverebbe moltissimo neanche in Europa, credo io, perché essendo la SPD debole, tutto sommato, non che Merkel sia fortissima, ma comunque essendo la SPD debole, difficilmente potrebbe chiedere la poltrona di ministro delle finanze. Credo che in un'eventuale grande coalizione, una nuova grande coalizione, Schäuble resterebbe ministro delle finanze e resterebbe ancora il dominus dell'Unione Europea, quindi non farebbe correre l'integrazione come vuole Macron. Ma comunque io direi che sarebbe l'ideale per il paese, secondo me. Il paese, la Germania ha bisogno di riforme, se ne parla sempre. In Italia si chiede sempre che faccia più investimenti, in realtà la Germania avrebbe bisogno di meno tasse, avrebbe bisogno di liberalizzazioni forti nei servizi. Sì. E questo renderebbe ancora più competitiva la Germania, naturalmente, e sarebbe un problema per gli altri paesi, me ne rendo conto, però questo è quello cui... Taino, lei lo sa che cosa succede nella politica e nell'opinione pubblica italiana se al governo entra Lindner, il capo dei liberali, che ha toni molto più duri dello stesso Schäuble verso i paesi a finanza pubblica più esposta a rischi, come nel nostro caso, però? Ma io spero che nell'opinione pubblica italiana si chiariscano alcuni malintesi, cioè l'aspettativa che i tedeschi paghino per l'Italia o per altri è sbagliata, non succederà e non capisco per quale ragione dovrebbe succedere. Che bello non essere da solo. Secondo me sarebbe un chiarimento, credo io, nei confronti anche di tutto il dibattito politico che c'è in Italia, che mi sembra veramente su livelli di non analisi corretta, ecco, diciamo, perlomeno. Dal punto di vista della novità storica del successo e degli eletti che avrà Alternative für Deutschland, questo, dal suo punto di osservazione, che problemi pone nuovi di tenuta del paese complessivamente? Dal punto di vista della tenuta, io credo che il paese sia un paese che ha un grande amore per la democrazia. La nuova Germania lo è senza dubbio un paese democratico, forse è uno dei paesi più democratici, più trasparenti anche nella politica. Quindi dal punto di vista della tenuta credo che al momento perlomeno non ci siano problemi in vista. Credo che però un risultato forte di Alternative für Deutschland influenzerebbe enormemente la politica tedesca e innanzitutto metterebbe sotto accusa, andrebbe in qualche modo sotto accusa Merkel, perché sarebbe accusata all'interno del suo stesso partito di essersi spostata troppo a sinistra e di avere lasciato un vuoto a destra che è stato occupato dai nazionalisti. Teniamo conto che tra l'altro Merkel non credo che trionferà in queste elezioni. Sì. I sondaggi la danno attorno al 36%, sì. 4 anni fa aveva preso il 41%. E se dovesse scendere sotto al 35% avrebbe problemi anche in Europa, perché comunque non sarebbe più la cancelliera così forte, così potente. Quindi domenica sera sarà interessante vedere com'è. Comunque il ruolo di Alternative für Deutschland, se ha un buon risultato, e un buon risultato vuol dire sopra il 10%, c'è qualcuno addirittura che teme il 15%. Sì, ne abbiamo parlato. Questo secondo me avrebbe una grande influenza sulla creazione della prossima coalizione. Molti vorrebbero che seppellire la grossa coalizione e aprirebbe un dibattito all'interno della stessa CDU-CSU. Nel confronto diretto del rapporto con l'Italia rispetto alle posizioni italiane su questo inizio di dibattito europeo, che cosa può cambiare a seconda della scelta degli elettori tedeschi? Ma io credo che tutto sommato andrà avanti sia nel caso di una grande coalizione, sia nel caso di un'alleanza Giamaica o nel caso di un'alleanza tra Merkel e che per il momento nei sondaggi non ha, e probabilmente non piace neanche troppo a Merkel stessa, ma comunque in tutti i casi, a mio parere, di queste tre alleanze possibili, diciamo, io credo che andrebbe avanti la posizione di Merkel, che è quella di dire facciamo pure un bilancio europeo, ma che sia un bilancio piccolo, a differenza di Macron che dice che sia un bilancio di parecchi punti percentuali del PIL europeo. Allora, io su questa conclusione di Daniel Taino concordo todo corde, sapendo che però in Italia sono minoranza assoluta tra i colleghi, ma soprattutto rispondo agli ascoltatori, che invece in questi anni noi abbiamo visto crescere in maniera impetuosa le mail e i vostri sms antigermaniche, che sono state fatte convincere dalla politica che è tutta colpa loro, che come dice il professor Fortis noi cresceremmo molto di più se non ci fossero i tedeschi, come se fossero i tedeschi ad aver deciso le politiche economiche e fiscali del nostro paese. Ne trovate una conferma ancora ieri sul Foglio. Ok, allora grazie ai nostri ospiti, appuntamento domani mattina alle 8:15 con me e Luca Telese a 24 mattina e domani pomeriggio alle 16:00.